giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Per quanto riguarda Cosa Nostra, parliamo sempre del clan, appunto, di Matteo Messina Denaro, di Palazzolo, stesso Provenzano, evidentemente. Ci sono altri clan mafiosi, ma di minore rilevanza, sul versante della Sicilia orientale. Ne è convinto Roberto Centaro, presidente della Commissione parlamentare antimafia, in questa intervista di Raffaella Calandra. Cosa Nostra S.P.A. non è mai stata sconfitta e i suoi boss sono ancora potenti, conservano radici solide nel territorio siciliano e in quello internazionale. Oggi Cosa Nostra consolida vecchie alleanze e avvia nuovi cartelli di monopolio criminale. Quello ad esempio creato con l'andrangheta calabrese permette di gestire il traffico di cocaina ed eroina in Italia e buona parte dell'Europa. Certo, direte voi. Le attività degli investigatori hanno scompaginato le cosche mafiose siciliane. Gli arresti di alcuni importanti latitanti hanno creato panico tra i boss. Le indagini hanno svelato legami ancora esistenti tra mafia e politica. Ma le cosche mafiose hanno un codice. Quando lo Stato attacca è meglio nascondersi, rendersi invisibili e in silenzio continuare i propri affari. Una scelta compiuta da Bernardo Provenzano, numero uno di Cosa Nostra, latitante da almeno 40 anni. Nelle molte indagini sul suo conto era emerso il ruolo predominante al vertice della commissione, quella che governa l'intricato dedalo di potere dei vari mandamenti mafiosi. Ma la geografia del suo nuovo potere viene svelata dal 2002 dal pentito Antonino Giuffrè, braccio destro di Provenzano, capo mandamento di Caccamo. L'8 ottobre 2002 Giuffrè compare per la prima volta davanti alla prima corte d'assise d'appello di Palermo. I miei incontri con il Provenzano sono stati quasi sempre periodici. Prima dell'arresto, in modo particolare, ogni settimana, 10 giorni massimo, ci vedevamo. Incontri che avvenivano a Bagheria, spesso a Palermo, parlo di posti siti in via Mariano Stabile, nella borgata Pagliarelle, in un fabbricato vicino al Politeama. Chi era il punto di riferimento che fissava gli appuntamenti? Lei, quando ci doveva parlare, a chi si rivolgeva? I punti di riferimento erano Leonardo Greco e Nino Gargano. Successivamente a questi due nomi si è aggiunto un terzo nome, Nicolò Eucaliptus. Come ho detto in modo particolare all'inizio, questi incontri, diciamo che in linea di massima c'era anche Cicentino in questo periodo, però all'inizio avvenivano nel deposito di ferro del Leonardo Greco. Poi successivamente in diversi posti situati nel comune di Bagheria, parlo come comune centro abitato, ho fatto incontri con il Con ogni probabilità Provenzano vive ancora in Sicilia, forse perfino nascosto a Palermo, comunque protetto da una vasta rete di omertà, di collusioni attiva ancora oggi. Roberto Centaro, presidente dell'antimafia, ammette che la caccia a Provenzano è iniziata troppo tardi, addirittura nel 1995. Lo si riteneva personaggio minore, addirittura morto, ma per Centaro quella di Provenzano resta una latitanza durata troppo tempo. Noi speriamo che sia catturato prima possibile, c'è una profusione di uomini e di mezzi, addirittura moltiplicati rispetto al precedente impegno, e questa latitanza dura già da un bel po'. In realtà Provenzano lo si cerca attivamente dal 95, perché prima di allora non gli si attribuiva particolare importanza, o a volte lo si è ritenuto anche morto. Provenzano rappresenta anche un simbolo e un punto di equilibrio tra vari potentati, un ago della bilancia che riesce a ricondurre a strategia unitaria i vari clan mafiosi. Catturato Provenzano, la lotta alla mafia prosegue come e più di prima, ovviamente. Nelle organizzazioni criminali solo i latitanti controllano i traffici illegali, toccano i soldi, gestiscono gli affari, sanciscono alleanze, chiedono protezioni alla politica e poi ottengono la certezza dei loro obiettivi economici. Accadeva nel passato, è stato così per Luciano Ligio, Stefano Bontate, Totò Riina, Giovanni Brusca. Una filosofia che resta immutata ancora oggi nella geografia della nuova Cosa Nostra. È così per Bernardo Provenzano, è così per il più giovane Matteo Messina Denaro, ancora Roberto Centaro. Il latitante gestisce integralmente l'attività del proprio clan e Provenzano svolge la sua opera a tutto tondo i titolari dei potentati più importanti, e quindi mi riferisco a Palazzolo per Palermo, a Matteo Messina Denaro per Trapani, sono anch'essi latitanti, ma gestiscono direttamente ed attivamente l'attività delle famiglie mafiose. È esatto dire che sono ancora un po' gli uomini della vecchia guardia che gestiscono gli affari di Cosa Nostra o ci sono affiliati che poi materialmente eseguono? Oltre a una parte della vecchia guardia ci sono anche generazioni più giovani e ovviamente ci sono poi quadri intermedi che sul territorio svolgono la rispettiva attività di competenza. Ma quali sono gli affari che finanziano oggi Cosa Nostra? Come si trasformano queste attività illegali e illecite in una società sempre più tecnologica? Quella della Commissione Antimafia è senza dubbio un punto di vista privilegiato. Droga, usura, appalti, dice ancora Roberto Centaro. La mafia si occupa certamente in primo luogo del traffico della droga, che è il traffico più remunerativo in assoluto, traffico delle armi, tratta delle persone, estorsioni, quindi il pizzo, il racket, usure. Si occupa anche degli appalti e lì cerca di inserire anche proprie imprese, le cosiddette imprese a capitale mafioso entrano solo nei subappalti, nelle forniture, non li accaldano, non li affreddano, non entrano nell'attività di imprese ad altissima tecnologia. Tra gli appalti, qual è il settore in cui la mafia cerca di infiltrarsi di più? Opere edili, ma a volte anche di forniture di servizi, per esempio ad enti pubblici. E proprio sul fronte degli appalti in Sicilia stanno giungendo soldi legati ad imponenti opere pubbliche. La malavita, in apparenza silenziosa, si sta organizzando per la spartizione di questo ingente bottino. E lo Stato si organizza, è stato istituito un gruppo di lavoro che deve verificare eventuali infiltrazioni mafiose nel mondo economico. Secondo Roberto Centaro, Cosa Nostra potrebbe insinuarsi solo in un aspetto secondario di questi finanziamenti, perché al momento, dice Centaro, non ha i mezzi tecnici. Tutte le opere devono considerarsi a rischio, lo è la Salerno-Reggio Calabria, quindi qualsiasi autostrada, così come lo potrà essere il ponte sullo stretto di Messina. Devo dire che però proprio per l'assenza di imprese mafiose per le attività ad alto contenuto tecnologico, poiché l'importo maggiore è dato proprio dalle strutture di attraversamento dello stretto e non dalle strutture di raccordo, almeno questa gran parte sarà esclusa dalle infiltrazioni. Per la Commissione Antimafia, nel delicato rapporto tra Cosa Nostra e politica, tutto resta immutato, proprio come prima. Roberto Centaro sostiene che ci sono ancora uomini politici vicino alla malavita, soprattutto in posti chiave, quelli dove passa la gestione di soldi e copiosi affari. Questi legami certamente continuano ad esserci, oggi oltre ai politici sono a rischio anche i funzionari, perché in virtù delle riforme Bassanini, i funzionari per esempio dell'amministrazione comunale sono i veri domini di un procedimento per un appalto, per cui continua ad esserci questo rischio di infiltrazione e vale per tutti i partiti, nessuno escluso, e purtroppo le mele marce ci sono ovunque. Quindi secondo lei ci sono infiltrati della mafia nel mondo della politica tra i funzionari? diciamo più che infiltrati, ci sono comunque persone che possono essere state attinte dall'organizzazione mafiosa, possono considerarsi colluse, contigue, certamente ci saranno. Ovunque vi possono essere interessi da tutelare o affari che l'organizzazione criminale possa fare, appalti, sanità, ovunque la mafia possa guadagnare, tenta di infiltrarsi. Quanto ai numeri, il presidente della commissione Centaro non si sbilancia. Gli affiliati di Cosa Nostra sono diminuiti, ma c'è ancora molto turnover generazionale. Presidente, ma secondo voi in questo momento la mafia su quante persone può contare? Non mi avventuro mai in questi numeri. Posso dire che rispetto al passato ce ne dovrebbero essere di meno, perché il 2002 e il 2003 sono stati anni record nelle operazioni delle forze di polizia e della magistratura, il 2004 è cominciato molto bene. Purtroppo però le condizioni socio-economiche consentono anche un turnover che rimpingua i ruoli dell'organizzazione. Un'organizzazione con ancora molta presa e molta presenza sul territorio, capace di assumere nuove leve. Quello certamente, devo dire che la situazione va certamente migliorando. È tutto per il Giallo e Nero di oggi. La collaborazione di Raffaella Calanda, la console Giorgio Mattè.